Tempo di Sport con Massimo Callegari. Amici di Radio 24, benvenuti. Come sempre, le vostre telefonate all'800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666 con Franco Piantanida che vigila in redazione, Mauro De Angeli in regia. Empieza otra copa, inizia un'altra Copa America per l'Argentina. Titolano i quotidiani in Argentina, Estreou, quindi ha iniziato il suo cammino, dicono invece in Brasile, dopo il 3-0 nella notte italiana contro la Costa Rica, che ha affrontato questa Copa America, è giusto e corretto sottolinearlo sempre, con una formazione praticamente under 23, però la Norata alla grande non è ancora fuori dai giochi, in attesa di capire se potrà essere una delle due migliori terze, e le possibilità ci sono ancora. Questo tra pochissimo e anche molto altro, perché è una giornata caldissima per il calciomercato. Sanchez, dicono in Spagna, al Barcellona ormai ci siamo, attorno ai 40 milioni. Il Sun dice 35 milioni di sterline, ovvero 39 milioni di euro. Sneijder pronto a sbarcare a Manchester, ha già chiesto al suo connazionale De Jong, che gioca nel City, quali sono le zone migliori dove comprare casa. E poi ancora altre notizie importanti, certo, come Villarreal che acquista Zapata ufficialmente dall'Udinese. Sentiremo Gasperini e Conte dopo la giornata di ieri, e andremo anche in Spagna per capire qualcosa di più dopo la sentenza di assoluzione nello scandalo doping dell'Operación Galgo della stella dell'atletica spagnola Marta Dominguez. Con ordine però iniziamo dunque dalla Copa America e diamo il bentornato a Emiliano Guanella dall'Argentina. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno Massimo. Hai ragione, l'Argentina che tira un sospiro di sollievo. Io non sarei entusiasta, nel senso che insomma 3-0 contro un Costa Rica, una nazionale che ricordiamo under 22, non è la nazionale maggiore del Costa Rica, già il Costa Rica non è una cifra tecnica tra come nazionale maggiore importante, e poi una nazionale che ha impiegato 43 minuti del primo tempo per sbloccare la partita. Cioè l'Argentina parte sempre col freno tirato, è incredibile, ma i primi 20-30 minuti sono, in questa Coppa America, per esempio queste prime tre partite, sono sempre abbastanza terribili dell'Argentina, non trova il gioco. Poi è venuto fuori Messi, e Messi con le punte, ottime punte dell'Argentina, da solo basta, sostanzialmente. È vero, anche perché comunque la squadra era sistemata con una logica diversa e sicuramente migliore rispetto alle prime uscite, con due centrocampisti come Gago e Mascherano, poi Di Maria esterno destro, Messi alle spalle della punta Higuaín, e Agüero come gioca nel Atletico, largo a sinistra, ha segnato due gol il Kun e dunque ha firmato in sostanza il successo dell'Argentina, lo ha griffato lui. E c'era molta tensione, alla fine era questo, no, il dubbio, e questo è stato probabilmente il motivo delle difficoltà dei primi 20-30 minuti, come tu sottolineavi, cioè questa pressione enorme su una squadra che non si rendeva quasi neppure conto di affrontare una selezione ringiovanita e giovane come quella della Costa Rica, e faticava addirittura nei primi minuti. Higuaín ha sbagliato un paio di gol clamorosi. Sì, ma poi soprattutto insomma, è chiaro che la squadra che abbiamo visto ieri è una squadra improponibile con i prossimi avversari, chiunque si siano, dell'Argentina, nel senso che è una squadra troppo sbilanciata in avanti, è una squadra che sì, dove l'inserimento di Gago è stato molto utile, dove Di Maria, io lo chiamo, a questo punto lo chiamo il cascatore Di Maria, perché ieri molte volte invece di continuare azioni ha cercato inutilmente il fallo, però dove Di Maria è sembrato un po' più convincente delle prime prove, e dove ormai si è confermato che la punta più efficace è Agüero. Rimane il mistero di Higuaín, che ha sbagliato ieri un gol colossale, e altri due che diciamo in giornata di grazia Pipita Higuaín avrebbe potuto sicuramente realizzare. E rimane secondo me una grossa lacuna in difesa, che è Gabriel Milito, e anche Zabaleta che non convince, sì, mentre invece sostanzialmente Zanetti fa il suo lavoro sempre diligentemente, e Burdisso ieri è stato molto più solido in difesa. Adesso, guardando il calendario, sì, l'Argentina potrebbe affrontare l'Uruguay, il Cile o il Perù, nel senso che deve affrontare la seconda del gruppo C, che è il gruppo appunto dove ci sono Uruguay, Cile, Perù e Messico. Cile e Perù hanno 4 punti e giocano, si affrontano, e Uruguay e Messico. Uruguay ha 2 punti, Uruguay e il con il Messico e il Cile dovrebbe in qualche modo vincere con il Perù. Se così andasse, il prossimo avversario dell'Argentina sarebbe l'Uruguay e sarebbe veramente una bella sfida, anche perché appunto in difesa bisogna essere più organizzati, perché di fronte ai comunque Forlán e Luis Suarez non ci sarà, ricordiamo, Cavani, e dal centrocampo in poi non bisogna lasciare sbavature, perché la difesa dell'Uruguay è sicuramente più solida di quella di Costa Rica. Se fosse l'Uruguay, se fosse il Cile, sarebbe ancora più complicato. Ieri il dato positivo della giornata della nottata di Cordova è stato il grandissimo affetto e calore dello stadio cordobese. Raccontaci, infatti, sì. Per Lionel Messi. Messi è stato ovazionato dall'inizio alla fine, sostanzialmente. Messi è stato decisivo perché i passaggi, Messi è il penultimo anello della catena, ma quello più importante, perché ha dato delle palle gol fantastiche che Agüero ha saputo realizzare, Higuaín alcune volte non ha saputo realizzare, però lo stadio, insomma, ha cantato molto più volte Messi che tutti gli altri giocatori. Altro mistero della testa di Batista, che a questo punto è un tecnico assolutamente imprevedibile, secondo me negativo, però forse la storia poi non mi dà la ragione. Sicuramente inesperto, poi sicuramente inesperto. Che ieri è stato chiamato sostanzialmente dal pubblico locale, pastore di Cordova, mm-hmm. cordobese, ha giocato nel tagliere di Cordova, e quindi il pubblico di Cordova lo ha gridato il suo nome a partire dalla metà del secondo tempo. Sostanzialmente Battista è stato obbligato a mandarlo, l'ha mandato quando mancava poco più di 10 minuti dalla fine dell'incontro, secondo me Pastore si potrebbe giocare un po' meglio, ecco. E a questo punto sarà bocciato Barega, Boninger è realmente bocciato e quindi non giocherà più, perché ormai comunque Gago ha convinto. Sì, ha giocato molto bene. Forse ci potrebbe essere Pastore, insomma non si sa, insomma Battista non l'aveva cambiato fino adesso, e poi di fronte all'emergenza e di fronte anche intelligentemente allo spessore minimo dell'avversario, che era il Costa Rica, ha capito che era importante organizzare una squadra molto offensiva, perché l'Argentina doveva vincere e doveva anche cercare la goleada per riacquistare animo e coraggio e entusiasmo intorno a questa selezione. Tra un attimo, sì. Quale sarà la squadra dei quarti di finale, perché lì è un'altra storia, lì è un'altra partita, altri avversari, altra caratura e soprattutto una partita secca, e quella mezz'ora, 40 minuti di panico iniziale l'Argentina non può più permettersi. La Gazzetta sul suo sito titola: il solito Mourinho ne ha per tutti, ma tra poco ci arriviamo. Emiliano, per chiudere, il Brasile, si parla moltissimo in Brasile, in Argentina, di Mano Menezes, della sua gestione molto decisa del gruppo e in particolare di Robinho, e poi però ci sono anche le scelte tecniche. Rischia secondo te il Brasile contro l'Ecuador in una gara che deve vincere? Ma dire di no in questa Coppa America sarebbe azzardare una sicurezza che i risultati di questa Coppa America non permettono avere. Mano Menezes e Dunga erano un allenatore assolutamente antipatico e più, e finì come finì nel Mondiale. Mano Menezes, diciamo, non ha conquistato il cuore né della stampa né dei tifosi brasiliani fino adesso. È vero che la sua lezione sulla sua nazionale piena di crack, come si dice qui in Sud America, non ha convinto, ed è vero che Mano Menezes stesso ha rimproverato a Neymar, la grande stella di questa nazionale, di essere più altruista, di passare più la palla, di alzare la testa quando sta giocando. Queste sono le parole testuali di Mano Menezes: alza la testa e non pensare solo al dribbling, e guarda lo schema della partita, perché si gioca e si vince tutti insieme. L'Ecuador non è certo un avversario che deve far paura al Brasile, però ricordiamo che il Venezuela ha 4 punti e che se il Paraguay vince supera il Venezuela, quindi anche un pareggio potrebbe non bastare alla nazionale brasiliana per classificarsi, quindi bisogna assolutamente vincere. Insomma, sono un po' i giorni delle grandi: oggi l'Uruguay, domani il Brasile, in qualche modo il Paraguay. La Coppa America è riuscita a incassare il passaggio del turno dell'Argentina, adesso gli organizzatori, un po' forse anche i tifosi, si aspettano che le altre grandi, assieme a delle bellissime sorprese come la Colombia, come il Perù, come il Venezuela, ma che le altre grandi ce la facciano, e del Brasile è chiamato a rispondere a questa sfida. Sembra incredibile stare fino all'ultima giornata del primo gruppo, della prima fase, non sapendo se il Brasile è qualificato o no, così come è successo con l'Argentina, però io credo che il Brasile potrà vincere la partita. Insomma, l'Ecuador è meno del Paraguay e meno del Venezuela, quindi sulla carta il Brasile dovrebbe farcela anche arrivare primo nel suo gruppo. Va bene, buona giornata e buon lavoro, a presto. Emiliano Guanella dall'Argentina. Grazie a te. C'è un messaggio di Sergio che è indicativo. Dice 7 Zapata, 16 Inler, 10, naturalmente stiamo parlando di milioni di euro, Pepe, 8 circa per Floro Flores, 3 D'Agostino, 32 dalle televisioni più stadio e sponsor, siamo già a 80 milioni, bisogna proprio arrivare a 120 con Sanchez. Insomma, il riferimento è naturalmente l'Udinese, il presidente Pozzo e gli affari in uscita che sono spaventosi. Poi chi ha ricordato nei giorni, nelle settimane scorse, quanto l'Udinese valutava D'Agostino due stagioni fa, quando poi la Juve prese Felipe Melo, dice magari loro valutano questi giocatori tantissimo e poi è un'ipervalutazione sulla base di una grande stagione, va bene, però dalla prospettiva dell'Udinese è impeccabile questo lavoro. Evidentemente loro non ritengono di voler o dover o poter competere con le grandissime in Italia, pensano di potersi rinnovare, hanno giustamente molta fiducia nella loro capacità di arrivare a giocatori nuovi, meno conosciuti, come hanno fatto negli ultimi anni per valorizzarli e dunque competere ancora anche il prossimo anno, pure partendo dalla preliminare di Champions, per cui questa è la linea, piaccia o meno. Nel frattempo, prima di farvi sentire le prime telefonate, 800 24 00 24, e le parole di Gasperini e Conte di ieri, è tornato José Mourinho dopo due settimane di vacanza. Un po' di cose che riguardano soprattutto il Real Madrid, una storia molto stupida quella che il Real e Mourinho volessero togliere la fascia a Casillas, così l'ha definita lui, è una bugia che poteva far male. Il coinvolgimento di Zidane mi fa piacere, che abbia deciso di cambiare vita, ci crede, ha molto da dare ma anche tanto da imparare. Una cosa è essere per tanti anni il miglior giocatore del mondo, un'altra fare il direttore del football della prima squadra. E poi una rosa molto giovane, è una rosa che ha 10 anni davanti a sé. Il problema è che i tifosi del Real Madrid vogliono vincere quest'anno. E poi ancora sulla sentenza UEFA e poi la Supercoppa col Barça che si giocherà alle 11 di sera nel match di ritorno, lo sapete, il 17 di agosto, perché in quella serata si gioca anche il match di andata dei preliminari di Champions e dunque la UEFA non consente che si giochino partite in contemporanea, quindi quando finiranno quelle partite si potrà iniziare al Camp Nou Barcellona Real Madrid alle 11 di sera. Dunque, come la finale di Champions tra Chelsea e Manchester a Mosca, sarà la seconda partita che si giocherà in pratica su due giorni, perché supererà la mezzanotte. Ora le parole di ieri di Antonio Conte e Giampiero Gasperini, Franco Piantanida le ha alternate per dare la temperatura al momento a Pinzolo dove c'è l'Inter e a Bardonecchia dove è in ritiro la Juventus. Ma amici mai, perché si cerca come noi. La cosa più importante è che qui stiamo lavorando e cercare di trovare quanto prima lo spirito Juve. Durante l'anno sicuramente ci saranno dei momenti in cui ci saranno delle difficoltà. La società si schiererà sicuramente con Conte. Il grande allenatore lo fa la società e lo fanno i calciatori, perché i protagonisti assoluti sono sempre loro. Non c'è mai nessun buon generale se non hai dei grandi soldati. Il derby è dovuto al fatto che c'è questa partita imminente, la prima della stagione, dove ci si gioca già comunque un titolo. Ma probabilmente per il periodo in cui viene giocata è una partita. Può avere dei risvolti importanti, questo è indubbio. Straordinaria, normalissima. Io nel momento in cui io ho firmato per la Juventus non ho firmato per obiettivi minimi. Io voglio vincere. Detto questo, ci riusciremo o non ci riusciremo, questo oggi non posso dirlo. Snyder è un grandissimo giocatore, è un top. La foto oggi mi dice che Snyder è qui, che ha grande entusiasmo, c'è stato subito un approccio molto, molto positivo. Snyder è qua ed è un giocatore che ha voglia di rimanere. Se io guardo il Barcellona vedo che 7 giocatori non sanno difendere. eppure vincono e stravincono. È molto importante avere un'idea di gioco, è molto importante avere un'organizzazione, perché se alla base c'è questo, secondo me abbiamo qualche chance in più per tornare ad essere quello che dobbiamo essere, non che eravamo, quello che dobbiamo essere. Noi dovremmo fare di tutto per smentirlo e sono convinto che invece potremmo essere già da subito, anche se poi l'anno scorso, voglio dire, è stata comunque una squadra che è stata capace, magari non nella migliore stagione di alcuni giocatori, magari per acciacchi, infortuni e cose varie, comunque di ottenere dei risultati significativi. Insomma, passione con equilibrio comunque da parte di Antonio Conte, alcuni concetti estremizzati, quello su Barcellona soprattutto, perché lì c'è comunque un lavoro difensivo enorme di squadra, è vero come lui ha sottolineato, ci sono anche giocatori come Busquets che a mio parere lui è un po' limitato per le sue grandi qualità invece. Certo, è vero come concetto assoluto che al di là di Messi, Mascherano che ha fatto benissimo il difensore centrale nel Barcellona, nella ultima parte della stagione non potrebbe farlo nell'Argentina e non potrebbe averlo fatto tantomeno non avrebbe potuto farlo tantomeno nella Juventus dell'anno scorso, dove non c'era nessun tipo di copertura per i difensori. Questo sarà un po' il problema principale, su questo Verto non ho i dubbi, sulla posizione, sul ruolo, sulla condizione, sulla fedelità fisica di Andrea Pirlo, che peraltro sta parlando ora e dice giusto paragonarci a Barcellona, la mentalità deve essere attaccare e pressare, un po' più di circospezione invece nelle parole di Gasperini, che si sta ambientando e sta osservando un po' quello che gli accade attorno, sta cercando di inserirsi in maniera graduale, però insomma senza quel distacco di Benitez dell'anno scorso e senza quella empatia che era apparentemente innaturale, troppo immediata, di Leonardo. Paolo da Alessandria ha chiamato all'800 24 00 24, prego. Oh, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Io volevo chiederle, non seguo più tanto il calcio, perché dopo il calcio poi non ho più seguito, relativamente lo seguo, purtroppo preferisco andare a vedere le serie minori, terza categoria, prima categoria o promozione al massimo. Volevo chiederle questo, lei che è molto preparato, ho visto, come mai la Juventus, io dico da sportivo, è stata penalizzata in un giro di un mese, l'hanno mandata in serie B? Perché telefonava, d'accordo, ma mi risulta che Facchetti è stato un grande giocatore, però telefonava anche Facchetti e più o meno faceva le stesse telefonate, a quanto ho capito dai giornali. Come mai non è stata giudicata anche all'Inter? Perché è andata in prescrizione, visto che le telefonate le faceva al periodo della Juventus? Come mai Guido Rossi, che era un dirigente dell'Inter, è andata a giudicare la Juventus? Io non capisco come mai la Juventus non abbia messo degli avvocati veramente in gamba per uscire fuori da questa situazione, perché la Juventus secondo me ha fallito completamente ormai, è una squadra da niente, ormai è paragonabile al mio Cesta, forse anche ha giocato ancora peggio quest'anno, ecco, è stata penalizzata in una maniera mostruosa con questo processo. Va bene, io Paolo, vorrei sapere da lei, che è pratico più di noi, e come mai non gli avvocati non della Juventus non si sono dati da fare? No, beh, perché allora naturalmente avevano la sensazione che era fondata sulla base dei dati che c'erano allora, che la Serie B fosse la cosa, il male minore, considerando la richiesta iniziale di Palazzi di Serie C. Poi lei ha fatto accenno a tante cose di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, mi dispiace che non abbia seguito, perché poi recuperare tutte le informazioni che lei ha chiesto sarebbe complicato e lungo, però insomma la sostanza è che la telefonata di cui si è occupato Palazzi, che sono emerse di dirigenti dell'Inter, ma non solo, anche di altre squadre, quelle dell'Inter sono quelle naturalmente di maggiore interesse in assoluto per tutti, non erano presenti nelle prime telefonate che erano state messe a disposizione di Palazzi, c'erano ma non gli sono state messe a disposizione, da qui poi tutto l'iter e si arriva sul piano sportivo alla prescrizione del titolo, poi il 18 luglio il Consiglio federale, se avrà un po' di coraggio, che poco finora ha dimostrato di avere, potrà decidere qualcosa in merito in un senso o nell'altro. Andrea da Roma, prego. Buongiorno. buongiorno, innanzitutto scusate che sono emozionato per parlare alla radio, quindi cerco di articolare la frase in il mio pensiero in un momento giusto. E niente, volevo rispondere al tifoso di prima che si stupiva, che la Juve non ha fatto nulla per diciamo per salvaguardare il buon nome della società. Io dico che la Juventus è stata, diciamo, si deve ritenere fortunata, perché dopo che era venuta fuori le tessere date da Moggi e da Girauto, insomma, dalla dirigenza agli arbitri, insomma, secondo me era la radiazione la cosa giusta, non la Serie B con poche cose. Avrebbe radiato anche la Juve, quindi avrebbe radiato anche la Juve, non solo i suoi dirigenti, ma anche la Juve. Assolutamente, è la prima regola che del calcio dovrebbe essere fair play, mi pare che è fair play, e insomma le cose fatte nel modo giusto, nel modo sportivo. Invece questo non è stato fatto. Io non sono tifoso dell'Inter, non voglio difendere l'Inter, c'ha le sue cose e tutto quanto, però paragonare quello a quell'altro mi sembra un po' una cosa un po' avventata, insomma, nel senso che... Va bene, chiarissimo Andrea, no, del resto, insomma, qui chi ci segue, ripeto, purtroppo poi l'ascoltatore di prima non ha precisato, e quindi su questo era stato molto corretto, non aveva seguito né le nostre considerazioni né altre vicende. Insomma, io ribadisco per l'ennesima volta, non sono mai stati messi sullo stesso piano qui e neanche da tante altre parti, mi sembra, quello che hanno fatto i dirigenti della Juventus rispetto a quelli di altre squadre. È vero che alcune cose sono emerse in ritardo, se fossero emerse in quel clima, allora, in quel periodo di grande foga giustizialista, sicuramente ci sarebbero state, insomma, delle conseguenze diverse e più ampie. È anche vero che la Juventus ha subito danni patrimoniali molto pesanti, come ha detto il suo presidente nel discorso di qualche giorno fa, però se li ha subiti, la responsabilità è stata dei suoi dirigenti, che in un modo o nell'altro la rappresentavano, e quindi non sono danni che sono arrivati così dal nulla, ma da sentenze di un certo tipo, pesanti certo, però rispetto anche a reati che sono stati considerati dalla giustizia sportiva molto pesanti. E al di là del discorso economico, che sicuramente in quegli anni ha inciso moltissimo, poi nelle stagioni successive, dalla prima in cui la Juve è tornata in Serie A in poi, ci sono state delle possibilità di spendere quanto è stato messo a disposizione dalla proprietà, e sul piano tecnico gli investimenti sono stati sempre sbagliati, e per questo c'è grande attenzione sul mercato di Marotta quest'anno, perché c'è il timore, o comunque c'è, insomma, il pericolo che la Juve possa perdere un altro anno. Non so se questa è una sensazione di questo timore così un po' dilagante, o invece prevale l'ottimismo in assoluto dopo le parole di Antonio Conte, la presentazione di ieri e i 5.000 tifosi a Bardonecchia. Lo chiedo a Mirko Graziano, che sta seguendo la Juventus anche nella fase di ritiro a Bardonecchia. Bentornato Mirko. Ciao a tutti. No, a livello entusiasmo proprio ancora no, c'è un po' di scetticismo da parte dei tifosi, che giustamente aspettano i colpi che dovrebbero, insomma, riportare la Juve quantomeno al ridosso delle primissime della classe. Quei colpi ancora non sono arrivati, anche se la squadra la stanno costruendo in maniera molto intelligente. L'anno scorso mancavano gli esterni in difesa e sono arrivati due ottimi giocatori, uno in particolare Lick Steiner. Oltre a Ziegler mancava una regia sapiente in mezzo al campo, mancava esperienza, carisma, ed è stato preso Pirlo, che secondo me è un grandissimo colpo, oltretutto a costo zero. Io ripeto, mi piace ripetere spesso che parliamo dell'unico giocatore al mondo, forse in questo momento, che potrebbe giocare titolare nel centrocampo del Barcellona, e ora manca però tanta qualità davanti, mancano almeno due grandi acquisti davanti, e penso che questo sta aspettando il popolo juventino. La questione legata a Giuseppe Rossi a che punto è? Perché in Spagna scrivono che ci sarebbe l'accordo fra la Juventus e il calciatore. Sì, è, molto avanti. Il giocatore, con l'accordo col giocatore non sarà un problema, anche perché la trattativa la sta portando avanti, come facendo da tramite, proprio anche il procuratore del giocatore, che è Pastorello. Sì. Quindi è chiaro che l'accordo di massima c'è già col giocatore. Ora bisogna trovare i giusti accordi con il Villarreal, che valuta il giocatore 35 milioni, sa di non poterli prendere in contanti, quindi si sta lavorando anche su una contropartita tecnica da inserire. È un giocatore gradito ad Antonio Conte, e il fatto che la Juventus cerchi un attaccante dall'inizio del mercato significa che la coppia Matri-Quagliarella non è considerata totalmente affidabile in partenza? Beh, io penso che sia considerata affidabile, però due giocatori, diciamo, di sicuro rendimento sono un po' pochi per una squadra che vuole tornare in Champions League. Ne serve almeno un altro, ma soprattutto ne servono forse anche altri due, perché Conte là davanti gioca con molti giocatori offensivi. Anche sulle fasce lui vuole più attaccanti che centrocampisti, quindi è chiaro che servirà un po' più di gente per dare anche poi il giusto cambio durante la stagione. Che effetto ti hanno fatto le parole di ieri di Antonio Conte? Come lo hai visto? Come ti sembra in questo approccio al suo ritorno nell'ambiente bianconero? Lui è motivatissimo, è un grande lavoratore sul campo, me l'avevano detto, chi lo conosceva già, l'ho potuto constatare qui, è un vero martello, entusiasmo, voglia e juventinità non mancheranno certo con lui. Come sarà gestire i Buffon e Del Piero, no? I due giocatori più rappresentativi di questa squadra? Lui ieri è stato molto preciso in questo senso, ha detto: ho giocato con loro, ho vinto, ho gioito, ho perso, ho pianto, ora però devono aiutarmi. Come pensi che, cioè, c'è il rischio che si ripeta quello che è successo un po' con Ciro Ferrara? Non credo, credo che per lui sarà molto più semplice questo, innanzitutto perché Buffon giocherà ed è inamovibile, Del Piero conosce bene quale sarà il suo ruolo quest'anno e soprattutto si conosce troppo bene con Conte, meglio che con Ferrara, c'è un rapporto forse ancora migliore, comunque più chiaro in partenza, quindi non credo ci saranno grossi problemi. L'ultima cosa, tu hai parlato di Andrea Pirlo, di movimenti di mercato della Juventus, c'è chi sostiene che insomma Conte, non avendo mai avuto un giocatore come Pirlo con quelle caratteristiche nelle sue squadre precedenti, sia così, abbia accettato la presenza di Pirlo, un acquisto che è stato fatto prima del suo, però non fosse e non sia il suo centrocampista centrale ideale. Quanto c'è di vero? Guarda, io credo che un allenatore che non considera Pirlo un centrocampista ideale sia da ricovero, non credo che Conte sia da ricovero, questa è la mia risposta. Va bene, grazie, buon lavoro a Mirko Graziano, Bardianecchia. Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno, Allegri allora è da ricoverare? Chiede Francesco da Milano sulla base delle considerazioni di prima del collega Mirko Graziano della Gazzetta dello Sport. Beh, insomma, Allegri ha valutato che Pirlo non fosse centrale nel suo progetto e non fosse l'ideale per ripartire con un tipo di calcio diverso rispetto a quello che il Milan aveva fatto per 8 anni nel periodo vincente, ma alla lunga non più così efficace, soprattutto imprevedibile, di Carlo Ancelotti. E poi Ale da Como dice: a me sembra che alla Juve, oltre al grande nome d'attacco, serva anche un grande esterno sinistro. Basto su Vucinic, c'è un buon difensore centrale, Silvestre del Catania è così bravo. Ecco, difensore centrale servirebbe uno che avesse le caratteristiche, quindi parlo di profilo di giocatore, come le Grottaglie, che possa guidare la difesa come ha fatto bene le Grottaglie nel primo anno soprattutto di Ranieri, che abbia anche buona qualità tecnica, perché questo manca ed è mancato alla Juventus, che l'anno scorso ha subito moltissimi gol, e questo aspetto difensivo andrà sicuramente migliorato, oltre ad altri aspetti come quello di far viaggiare Krasic senza palla negli spazi, cosa che l'anno scorso è stata fatta pochissimo e che invece con Pirlo forse si potrà fare meglio, non avendo Krasic delle qualità tecniche eccelse come dribblomane, e dunque è stato poi decodificato dopo i primi 2 o 3 mesi dai difensori avversari, e quindi un po' limitato, oltre ad aver avuto altri problemi di natura così fisica e di condizione, avendo giocato senza sosta per tutto l'anno solare. Eugenio da Napoli, prego. Buongiorno, e prima di tutto complimenti per i toni e l'equilibrio della vostra trasmissione. Io la chiamavo per quanto riguardava la presentazione di ieri che hanno effettuato l'acquisto del Napoli Hitler, sì. Dove da più parti ho letto su alcuni siti che sono messaggi un po' grotteschi, troppo cinematografica. Invece io credo che il vero ruggito fiere è stato quello del presidente della Juventus, che in 7 anni è stato in grado, attraverso un grande programma tecnico e economico, di rilanciare una squadra con con basi e con gambe veramente solide. E in questo contesto volevo sapere un tuo giudizio sulla campagna acquisti del pubblico. Sì, no, io credo che a oggi, quindi siamo al 12 luglio, il Napoli sia più vicino al Milan e anche all'Inter rispetto alla fine del campionato scorso, perché ha migliorato alcuni aspetti in cui doveva migliorare. Certo, se pensiamo che Pazienza, che è un buon giocatore, è passato alla Juventus e Inler è passato al Napoli, di certo il Napoli ha migliorato il suo standard qualitativo in quella posizione del campo. Credo che sia un giudizio condivisibile, al di là del valore e delle capacità, della qualità di Pazienza e di quanto ha fatto l'anno scorso. Servivano dei ricambi in difesa e anche qualcosina di meglio sul piano della qualità, e arriveranno con Britos, che sta svolgendo ora la presentazione in maniera un po' più sobria rispetto a quella di Inler di ieri. Arriverà Federico Fernandez, che è un buon difensore, è argentino, quindi va europeizzato, va reso un po' meno precipitoso, va limitato nella sua eroenza, però ha lavorato molto bene in Argentina nel suo ex club all'Estudiantes. E poi vedremo se arriveranno altri giocatori, ci sarà Santana, che è un buon ricambio se sta bene. Quanto diceva lei è vero, pensiamo che Napoli e Juventus in pratica sono salite dalla Serie B nella stessa stagione e poi hanno fatto percorsi molto differenti, con budget anzi forse addirittura minore quello del Napoli. Il presidente ieri ha fatto, secondo me, dal punto di vista così della scenografia, una bella presentazione. Ha sicuramente esagerato poi nel modo in cui si è rivolto al collega Gianluca Monti della Gazzetta dello Sport e nel modo in cui insomma ha cercato anche di superare e prevaricare la nostra professione facendo direttamente lui le domande a Inler, ma insomma così è e fa parte un po' del suo modo di rappresentare il Napoli. Matteo dalla provincia di Catania, prego, veloce. Sì, salve, grazie. Innanzitutto io ci tenevo a rispondere a chi prima ha chiamato parlando un po' di Calciopoli. Io parto dal presupposto che sono un tifoso juventino. Ciò che volevo dire a tutti i tifosi della Juventus, ma anche un po' ai dirigenti, è quello di distaccarci di quello che era la Juventus del 2006, di quello che è successo alla Juventus nel 2006 con Calciopoli e tutto. Perché continuare a pensare con la mentalità che forse la giustizia sportiva non abbia fatto bene oppure ci ha solamente penalizzati, non fa altro che dare a tutta la squadra, ma anche a tutta la dirigenza, una sorta di handicap, perché la società adesso si dovrebbe più impegnare ad allestire una squadra che sia degna a giocare il prossimo anno nel nuovo stadio della Juventus. Poi, oltre a questa breve parentesi su Calciopoli, volevo fare anch'io una parentesi su ciò che si è ridotto adesso il calciomercato, dove purtroppo a fare adesso il calciomercato sono soprattutto gli sponsor e chiaramente i procuratori. Ciò che volevo dire è che secondo me ci sono giocatori che non valgono sicuramente i prezzi esorbitanti che sono stati fatti. La colpa penso che maggiormente l'hanno avuta gli sceicchi che sono entrati nel nostro calcio, di calcio e mettendo solamente i soldini, come si dice. Sì, i prezzi naturalmente li fa il mercato e quindi purtroppo loro hanno, o per fortuna dal loro punto di vista, lo hanno dopato, nel senso che hanno aumentato sicuramente certe quotazioni. Addirittura leggo il Manchester United vorrebbe offrire 21 milioni di sterline, credo, per Downing, che è un buon esterno in Inghilterra, però insomma sono tutte cifre che da noi non varrebbero, considerando che già i 10 milioni per l'Istanbul sono tantissimi. Mi piacerebbe davvero che la Juventus, avendo questa grande possibilità di creare un progetto nuovo, andasse a prendere qualche giocatore meno conosciuto, nuovo, più giovane, terzino destro. Lo Sporting Lisbona ha preso uno di 19 anni, colombiano, Arias, bravissimo, sudamericano under 20, ma da noi non se lo filerebbero per nulla. Chiudiamo un paio di minuti con Filippo Maria Ricci dalla Spagna, perché oggi Marca addirittura ha cambiato la sua testata uscendo con la T al posto della C, Marta, poi il titolone limpia, cioè pulita, Marta Dominguez, cadono tutte le accuse per traffico e somministrazione di sostanze dopanti nella operazione Galgo. In molti gridano allo scandalo. Filippo, a te. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Sì, questa è diciamo una portata, come la chiamano qua, una prima pagina che si collega a quella del 10 dicembre, quando scoppia l'operazione Galgo e Marca titola Marta también era mentira, cioè anche Marta era una bugia, collegandosi ai tanti casi di doping che sono apparsi in Spagna in questi anni, in questi mesi. E 10 pagine allora dedicarono all'evento e spararono ovviamente piuttosto forte contro di lei. E così fecero anche tutti gli altri giornali spagnoli. Oggi Marca fa questa retromarcia incredibile, anche perché c'è da spiegare, Marca è dello stesso gruppo del Mundo e il Mundo, quotidiano politico, è stato, grazie al suo direttore, che è diciamo uno dei giornalisti più influenti di Spagna, se non il più influente, il grande difensore di Marta. Lui l'ha portata in televisione, nella loro televisione l'ha intervistata e da lì è partita la campagna pro salviamo Marta. E gli altri giornali però non se la bevono mica tanto. El País, che è diciamo il giornale migliore nella lotta al doping, dà la notizia lì un taglio medio, un taglio basso, poco e poche righe. Il Pubblico, che è un altro giornale che di solito è molto attento a queste situazioni, per esempio dice sì, va bene, adesso il giudice ha deciso così, però ci sono un sacco di punti interrogativi, le intercettazioni telefoniche che sono state rese praticamente giuridicamente inutilizzabili, ma che erano abbastanza chiare sul coinvolgimento di Marta Dominguez in una, diciamo, un disegno di doping collettivo, e il nome del suo cane, Urco, che era tra gli appunti di Eufemiano Fuentes già dai tempi dell'Operazione Puerto, quando sappiamo che Fuentes ha sempre utilizzato i nomi dei cani come pseudonimo, il nostro Basso era Birillo come il suo cagnolino, sì, o Valverde era Piti come il suo cane, c'era anche il cane della Dominguez, c'era una sacca di sangue con il suo collegata al suo cellulare, adesso tutto a posto, Marta è pulita, abbiamo scherzato, siamo sbagliati, abbiamo riempito pagine e pagine, però ci siamo sbagliati. Mi puoi dire in 20 secondi se è considerata una sentenza politica? Assolutamente, è scesa in campo, lei era vicina al Partito Popolare, e quindi il Partito Popolare ha detto che era colpa della sinistra, dimenticandosi che la sinistra diciamo aveva trionfato con lei e con tutti quelli che avevano vinto in questi anni di crisi e di governo, voglio dire ogni successo sportivo l'età d'oro, no? L'età d'oro dello sport spagnolo, quindi adesso il Partito Popolare che dica che è un complotto della sinistra fa abbastanza ridere, perché in realtà la sinistra va chiuso non uno ma entrambi gli occhi sulla situazione doping in Spagna. Grazie Filippo Maria Ricci, ci sentiamo presto per commentare le prime schermaglie Real Barça da Madrid, grazie a Franco Piandarita in redazione, Mauro De Angeli in regia, a domani con A Tempo di Sport su Radio 24, buon pomeriggio.